Il punto di Stefano Folli. Abbiamo tutti sempre saputo che esiste un nesso fra i processi di Berlusconi e la stabilità del governo. Sul piano formale no, il legame non c'è e quindi Enrico Letta può anche insistere a dire che non ci saranno ripercussioni dalla sentenza della Cassazione anticipata ora a fine luglio. In realtà la solidità della grande coalizione si fonda per il PDL sulla speranza che Berlusconi si salverà dalle condanne. Se così non sarà, se il vecchio leader sarà interdetto dai pubblici uffici, è impossibile immaginare che tutto continui come prima. Per quanto è vero che gli eventi successivi non sono così scontati. Berlusconi, o chi per lui, dovrà comunque preservare una parte almeno della grande forza politica del centrodestra. Una linea eversiva di pura destabilizzazione e di attacco alle istituzioni non sarebbe certo condivisa da tutti. Più facile prevedere che il blocco berlusconiano si divida, ma in ogni caso le conseguenze sul governo Letta saranno evidenti.